L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale andremo in prima battuta all'estero. Perché? Perché in occasione di una fiera alimentare che si chiama Prodexpo ho avuto l'occasione di andare a Mosca. La fiera è una delle principali fiere del paese e ovviamente lì le questioni che dovevo affrontare per Radio 24, ma forse l'avrete sentito nel corso delle nostre trasmissioni, erano questioni economiche e non certo questioni ambientali. Ci sono le sanzioni europee alla Russia per la rivoluzione ucraina e, come si sa, quelle russe ai prodotti alimentari europei e nordamericani. Ovviamente non avevo minimamente intenzione di andare a caccia di questioni ambientali a Mosca in quello specifico momento, ma incontrando Konstantin Krohin, che alla Camera di Commercio di Mosca presiede la Commissione di Cooperazione con l'Italia, ho scoperto che questa collaborazione tra i due paesi sta toccando anche l'ambito della sostenibilità ambientale. Allora vi faccio sentire cosa mi ha raccontato Krohin in questa occasione. We have such company like Delimobil. This is a car sharing company. Abbiamo questa compagnia di car sharing che si chiama Delimobil, che è stata avviata da un italiano, Vincenzo Trani. Ha aperto a Mosca in settembre ed è la prima compagnia di car sharing del paese. Ecco, questo è un esempio di impresa nell'ambito dei servizi e non della produzione di beni. È un modello di impresa che viene da Milano. Milano ha ospitato nel 2014 le giornate di Mosca ed è stata un'esperienza fruttuosa. Noi siamo molto interessati a modelli di business come quello del car sharing. Mosca, come sapete, è una megalopoli e siamo molto sensibili al tema dei trasporti. La nostra rete di trasporto pubblico, autobus e metropolitane, cresce molto velocemente. Così abbiamo fatto una joint venture con la metropolitana di Milano che si chiama MMB Project e stiamo lavorando insieme per organizzare il servizio ferroviario urbano della città, come a Berlino, ma come anche a Milano. Vogliamo fare lo stesso. L'accordo è stato fatto in settembre e ora la società sta studiando il progetto. Con il direttore generale di Metropolitana Milanese, Stefano Cetti, si sta ragionando anche su altre città russe, Nizhny Novgorod, per esempio. Lì la metro risale ancora all'epoca sovietica, ma può essere modernizzata. La joint venture sta creando nuovi spazi di lavoro. Per esempio, Milano e Torino hanno già sperimentato la metropolitana senza conducente con successo. Potremmo farlo anche noi. Tutte le nostre città con più di 1 milione di abitanti hanno bisogno di modernizzarsi. Prima di tutto nel trasporto pubblico, poi nell'ambito del rispetto per l'ecosistema e l'ambiente e quindi nell'edilizia e nell'efficienza energetica. E qui gli italiani sono davvero forti. Ora cominciamo anche noi a preoccuparci di queste cose. Siamo arrivati al punto in cui le condizioni ambientali delle nostre città cominciano a preoccuparci. A Milano avete messo gli autobus gratis per qualche giorno perché c'era lo smog. Beh, quella è la nostra normale situazione. Meno male che queste eccellenti aziende italiane nel campo dell'efficienza energetica trovano lavoro almeno in Russia, perché noi davvero facciamo troppo poco. Beh, noi non facciamo niente per ora. Senta, mi diceva che in primavera quindi presenterete la Russia a Torino. Sì, finora ci siamo concentrati su Milano. A Torino vogliamo organizzare incontri per la cooperazione nei campi dell'aerospazio, della produzione dell'auto, della cultura e dello sport, visto che avremo anche i mondiali di calcio del 2018. Torino ha lavorato molto e sta ancora lavorando molto in questi ultimi due campi. Sono il nuovo volto della città. Da un punto di vista industriale, ma anche culturale, l'Italia e l'Europa in genere sono i nostri riferimenti. Ecco perché possiamo lavorare insieme alla modernizzazione delle nostre città e alla tutela del nostro ambiente. E quindi sono legami interessanti quelli di cui ci ha parlato Konstantin Krohin, che, come dicevamo, è il presidente della Commissione di Cooperazione con l'Italia della Camera di Commercio di Mosca. Sono legami interessanti che hanno appunto già degli sviluppi, abbiamo detto delle metropolitane milanesi con le metropolitane di Mosca, ma c'è anche questa azienda, Delimobil, abbiamo sentito, avviata da un italiano, Vincenzo Trani, sul modello del car sharing di Milano. Io ho avuto la curiosità di contattare Dell'Immobile per sapere come stanno andando le cose, visto che l'azienda ha iniziato a lavorare nel settembre scorso. E ha risposto alle nostre domande Stanislav Groshoff, che è l'amministratore delegato di Dell'Immobile. Abbiamo cominciato a lavorare più in dettaglio cominciando da aprile del 2015 e entro 5 mesi abbiamo creato il sistema IT, abbiamo acquistato le macchine e il 10 settembre siamo partiti insieme con il governo di Mosca con questo progetto. Che auto state utilizzando, per curiosità? Stiamo utilizzando un tipo di auto, è un Hyundai Solaris. Penso che in Italia è un i20 forse, perché non c'è più Solaris in Italia, se non mi sbaglio. E più o meno è Hyundai i20. È una macchina che viene prodotta in Russia, a San Pietroburgo. Perciò è una macchina che si sente molto bene durante l'inverno. Sapete bene che a Mosca le temperature in inverno sono bassissime, perciò siccome è una macchina che viene usata molto dai moscoviti, abbiamo deciso di usare questo tipo di macchina per il car sharing. Mm-hmm. Siamo partiti con 100 macchine a settembre e in dicembre già avevamo 300 macchine e oggi ne abbiamo 500 che stanno girando per tutta Mosca. Stiamo usando free floating system, vuol dire che la persona può affittare la macchina dunque e lasciarla in qualunque posto. Come esempio abbiamo preso l'esempio di Enjoy a Milano. Siccome abbiamo visto come funzionava lì, per noi è stato interessante a creare una cosa simile qua in Russia. E devo dire che ci siamo riusciti e abbiamo più o meno sistema uguale come Enjoy, solo che stiamo usando l'IT e tutta l'infrastruttura, tutto il sistema russo nostro. Quindi l'avete ricreato proprio apposta? Non proprio tutto, abbiamo messo i nostri know-how, secondo la mentalità russa, secondo le esigenze dei moscoviti, e abbiamo fatto un prodotto nostro, non è che copiato al 100%. Quali sono le esigenze dei moscoviti diverse rispetto a quelle dei milanesi? Sì, prima di tutto il periodo di noleggio è molto più alto e di più di quello di Milano, perché Mosca è molto più grande. Poi le temperature basse pure dovevamo prendere in considerazione quando creavamo il sistema, perché dobbiamo dare un po' di tempo per riscaldare un po' la macchina prima che il cliente parte. Dovevamo pure mettersi in contatto con il governo di Mosca riguardo il parcheggio, perché prima non era possibile parcheggiare una macchina, non c'era un termine speciale per le società, per gli operatori di car sharing a Mosca. Invece ci siamo messi in contatto con il governo di Mosca e loro sono interessati a creare il sistema simile che esiste a Milano, perciò sono andati a Milano a vedere come funziona e dopodiché il governo di Mosca si è interessato a creare una cosa simile qua anche a Mosca. Beh, Mosca ha anche un traffico molto intenso, quindi sicuramente un'iniziativa di questo tipo può contribuire anche ad alleggerire, no, la quantità di auto per strada, le quantità di auto private. Esatto, sì. Il governo di Mosca è interessato a creare, a avere più operatori sul mercato, avere più macchine, perché capiscono molto bene che più macchine di car sharing ci sono, meno macchine private ci saranno per strada. E già adesso vediamo che più o meno una macchina di car sharing sostituisce 4-5 macchine private a Mosca già adesso. E adesso siete a 500 auto, mi diceva. Avete in mente di ampliare ancora la flotta a breve o aspettate ancora un po'? In quest'anno vogliamo avere 1.500 macchine 1.500. In anno. Sì, 1500 macchine e per 2017-2018 vogliamo arrivare fino a 3300. Che prezzi hanno, scusi, per curiosità? Il prezzo, vi dico in euro, il prezzo del minuto è 10 centesimi, 10 euro centesimi, che sono 7 rubli al minuto. È un prezzo molto buono, per esempio il prezzo di tassi più o meno 15 rubli al minuto. E devo dire che noi facciamo di tutto che le macchine vengano usate la mattina per andare al lavoro dalla gente. Durante la mattina noi abbassiamo il prezzo e facciamo pagare al cliente solo 5 centesimi al minuto. Non c'è una registration fee che deve pagare il cliente. Il cliente bisogna avere solo il telefono, lo smartphone, con quale il cliente installa l'application e tramite questa application comincia il noleggio e termina il noleggio. Perciò abbiamo cominciato con Mosca e dopodiché abbiamo in programma di uscire anche su altre città in Russia, ma anche in paesi di ex Unione Sovietica. Complimenti e allora magari ci risentiamo più avanti, insomma, quando via via che cresce il servizio magari mi tenete informata. Sono molto contenta, mi farà molto piacere. Con molto piacere. E devo dire che l'idea è venuta dall'Italia, abbiamo preso molto dall'Italia, perciò posso dire che è un progetto più o meno italiano qua a Mosca. Era Stanislav Groshov, l'amministratore delegato di Delimobile, questa compagnia di car sharing che è nata nel settembre scorso a Mosca sul modello di Enjoy a Milano, sempre car sharing. Ci ritroviamo tra pochissimo, andremo a Torino, ma non per parlare di russi a Torino, bensì di un museo. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati, questa è la seconda parte dell'altro pianeta. Nella prima abbiamo parlato di cooperazione tra Italia e Russia in ambito ambientale. Ora cambiamo argomento, come dicevamo siamo a Torino per un museo, si chiama MACA, Museo A come Ambiente, che è stato ampliato negli ultimi mesi. La presentazione ufficiale è stata nel corso della settimana e ce ne parla Agostino Rebaudengo, che è il presidente appunto del MACA. Dunque, il museo esiste da molti anni ed è stato, diciamo, il primo museo ambientale europeo in Europa. Quindi questo, diciamo, è un bel primato. Sappiamo che Torino ha una capacità di innovazione abbastanza forte. Diciamo, la storia di questo museo è stata, diciamo, ha avuto diverse localizzazioni e da qualche anno è negli ex stabilimenti della Michelin, in un posto che si chiama Spina 3. Diciamo, quello che abbiamo fatto proprio recentemente, l'abbiamo inaugurato, è un allargamento del museo con un nuovo padiglione che chiamiamo padiglione verde perché diciamo, ha un giardino verticale sulle sue pareti esterne e abbiamo anche rinnovato molti degli exhibit diciamo per due motivi fondamentali. Il primo perché alcuni erano diventati in qualche modo obsoleti rispetto alle tematiche e due perché ne abbiamo, avendo aumentato la dimensione, gli spazi espositivi oggi sono tra interni e esterni di circa 3500 metri, ovviamente avevamo la necessità di avere nuovi exhibit e ne abbiamo per esempio uno interamente dedicato a un'area del museo, all'alimentazione. Quindi è un museo per tutti, no? Da quello che capisco, un museo forse soprattutto, se guardo il sito, penso molto anche ai giovani, ai bambini, ai ragazzi. Sì, diciamo è un museo che è, diciamo, pensato inizialmente per, diciamo, bambini, diciamo, dai 7 anni ai, diciamo, che 20 anni sono ancora dei bambini. Beh, oggigiorno sì, dai. Però dall'altra, diciamo, dall'altra parte è anche una grande occasione per i genitori e i meno giovani di capire e di riapprofondire dei temi, perché essendo molto legato alla scienza e all'ambiente, ovviamente anche la formazione che abbiamo avuto quando eravamo a scuola diciamo, è diventata un po', per fortuna, obsoleta. Per cui nel museo si possono approfondire oggi temi importantissimi come l'energia rinnovabile, l'energia pulita, diciamo, la prossima frontiera del fotovoltaico o delle biomasse e del biometano, ma si possono ovviamente studiare l'acqua, la potabilizzazione, le problematiche che esistono nel mondo, gli scarti che una volta chiamavamo rifiuti e che possono diventare, diciamo, nuove importantissime materie prime, oppure approfondire dei temi come le polveri sottili e i cambiamenti climatici con la CO2, che sono problemi che hanno, diciamo, ormai una visibilità importante su tutte le prime pagine dei giornali. Penso alla recente COP21, certo, di Parigi, possiamo tornare di nuovo, i meno giovani, diciamo, al fermo delle automobili dopo la guerra del Kippur nel 73, che oggi facciamo, diciamo, per un problema importantissimo che sono le PM10, e presto parleremo anche di PM5 e PM2, che sono le polveri sottili che sono prodotte da, diciamo, ovviamente i mezzi di trasporto, ma anche dal riscaldamento e anche, ahimè, dai vari caminetti che funzionano, diciamo, a cippato, a pallet. E quindi dare informazioni anche a chi visita questo museo su questi temi e dare anche delle indicazioni di vita, cioè non è un museo in cui si va a vedere come eravamo, ma come possiamo diventare, magari. Come diciamo, esatto, è molto su come siamo e su come potremmo migliorare con un uso responsabile delle risorse. Quindi non è che siamo necessariamente, no, per una decrescita più o meno felice, ma siamo per una crescita sostenibile. E questo credo che sia una grande, diciamo, opportunità per molte persone, anche meno giovani, per poter capire il linguaggio e le discussioni che radio, televisione e mezzi di stampa e, diciamo, anche social oggi discutono. Sicuramente, per capire, per sapere, appunto, quello che ci circonda e magari anche prendere delle iniziative, perché poi il bello delle visite al museo è quando si torna a casa e si ha, no, ben caldo il ricordo e la volontà magari di ripetere qualcosa che si è visto, di proporre qualcosa che si è visto. Io spero che, cioè, immagino che questa sia anche la vostra ambizione, no? Che i visitatori portino indietro. Sì. Assolutamente sì, e il museo, diciamo, ha vari livelli di interattività. Senta, le voglio così, abbiamo detto un po' tutte le novità, il padiglione verde, la sezione trasporti, l'energia, forse poi se riesce diciamo anche due parole del muro dell'energia che mi incuriosisce, ma vedo anche l'ascensore virtuale che permette ai visitatori di scendere negli abissi di mari e oceani. Sì. Come funziona? Ma diciamo, ovviamente è virtuale, nel senso che con delle telecamere l'ascensore in realtà sta fermo, ma diciamo la visione sulle pareti è una visione in cui si scende a diverse profondità e si capisce quali sono le caratteristiche, diciamo, degli abissi, e anche ovviamente quali sono le problematiche del cambiamento che l'attività dell'uomo sta facendo per, diciamo, un eccesso di, o per l'innalzamento della temperatura o per, diciamo, una non gestione degli scarti e quindi delle plastiche, il petrolio e altri rifiuti che vengono gettati o che finiscono in mare anziché essere preventivamente trattati. In conclusione, se penso a lei, penso quindi anche alla sua presidenza di Assorinnovabili e a tutte le sue attività nella produzione di energia rinnovabile, credo che sia particolarmente affezionato alla parte dell'energia di questo museo. Che cosa troviamo lì? Ma diciamo, ovviamente abbiamo rinnovato anche la parte dell'energia e troviamo, diciamo, abbiamo realizzato quello che chiamiamo il muro dell'energia, in cui c'è tutta la storia dell'umanità, proprio dalla preistoria, quindi i primi momenti in cui l'uomo ha cercato di diciamo, far leva su qualcos'altro che non fossero proprio le sue braccia per scaldarsi, illuminarsi, spostare se stesso le cose di cui aveva bisogno. E quindi arriviamo fino a oggi alle energie rinnovabili, che ovviamente sono una realtà già oggi, ma che devono sempre più diventare diciamo, un futuro per poter essere, diciamo, sostenibile, e poi si intravedono anche nuove applicazioni dell'energia, così come la produrremo e la useremo in un futuro, per esempio, come dire, wireless, cioè non utilizzeremo più, oggi abbiamo i primi esempi di telefonini che si caricano per induzione, ma diciamo di prospettiva avremo anche degli oggetti che, come dire, useranno l'energia che c'è nella stanza, come usiamo oggi il wifi per i nostri telefonini, computer e iPad. Li verremo a vedere lì, allora, così li avrete prima di noi in casa sicuramente. Grazie, davvero vale la pena, abbiamo tra l'altro, per favorire le famiglie, fatto dei pacchetti particolarmente convenienti ed è, diciamo, molto agevole. Sul nostro sito acomeambiente.org è possibile avere moltissime informazioni. Grazie ancora, ha fatto bene a ricordarlo e a risentirci. Grazie. Ci fermiamo qui, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.